È giusto che si parli anche di ciò che nessuno vuole sapere. Non c'è necessità, ma è giusto, perché se no non saprei che dire. Perciò forza e coraggio, e con in mano il cuore mi accingo con rispetto a parlarvi delle suore. La maggior parte della gente crede di sapere ma non sa, e tanto per cambiare noi soltanto conosciamo la realtà. Aprite bene gli occhi, corriamo un grave rischio, per questo con veemenza io coglioni me li raschio. Sembrano vecchiette inermi e gracili e gentili, e invece no, forelle non lo fanno mica apposta. Sta di fatto che però se le becchi per strada e scordi di toccarti, dovranno venire con un cucchiaino a raccattarti. Pertanto se dovesse capitare di incrociarle per la via, tu toccati le palle con la destra e sculerai. Parola mia, se poi vuoi fa 31 ed essere più sicuro, ci aggiungi un bel mortaccio e starai come dietro a un muro. Però se non sei solo quando passa massa insieme ad altra gente, ricordati che pure il meglio amico si comporta da vedente. Allora sii veloce, grida suora tua, poi dici pure chiuso e la rogna è tutta sua. Con un rapido catalogo di suore porta sfiga, perché il nemico prima lo conosce e dopo fai parti la sfida. Infatti facci caso, il colore del vestito segnala la presenza del nefasto presagito. La suora nera è tra le sorelle la più succola che c'è, seguita dalla grigia e dalla bianca che non fa poi chissà che. Invece se africana indossa abito bianco, che se indossasse il nero la vedresti mica tanto. Qualcuno si sta domandando se i nostri discorsi sono veritieri, che cazzo ne so, io sto canticchiando e comunque mi gratto volentieri. Sordua, chiuso.